Sta per cominciare la presentazione del disco di Massimo Zamboni qui a Galleria Alberto Sordi, estinzione di un colloquio amoroso. Presenterà anche lo stesso album e lo stesso libro. E verrà coordinato tutto da John Vignola del Mucchio e siamo sempre qui in attesa che inizi la conferenza stampa. Buonasera, è con piacere che questa sera sono qui, o meglio, è qui il mio spettro comunque, per parlare con una persona che mi permetto di definire un amico, almeno un amico, per quello che riguarda la mia formazione musicale, anche culturale, perché nel buio della mia cameretta, prima ai CCCP, molto più tardi quando la cameretta era diventata quasi un albergo a ore, se vogliamo. Sono arrivati i CSI ed è arrivato anche un personaggio che ha fatto parte di questa storia, una storia molto coraggiosa che non vedevo e non potrei poi in poche parole descrivere neanche nei suoi dati salienti, perché Massimo Zamboni, a volte insieme a Giovanni Lindo Ferretti, e per quello che mi riguarda è la prima e ultima volta che oggi lo nomino, per evitare così, insomma, deviazioni, ha scritto una pagina molto interessante di quello che all'epoca volevamo definire come rock italiano, e io oggi non saprei più cos'era, ma so che si trattava, per usare un termine qualche volta usato a sproposito, di materiale resistente. Resistente perché duraturo, perché ha segnato una generazione, non solo la mia, una generazione dove l'ironia, un certo tipo di attivismo della mente, del pensiero, ma anche del corpo, si sono sposati e sono andati avanti. Esperimenti che sono andati bene, esperimenti che hanno avuto degli inceppi, come forse il consorzio suonatori indipendenti è stato in parte, e una storia lunga che nonostante sia i CCCP, sia i CSI siano finiti, ha ancora dei riverberi nel presente, tanti ragazzi molto giovani che quindi non c'erano quando queste storie erano attive, riscoprono quei dischi, ma è una importante testimonianza di continuità rispetto a quello che oggi vogliamo qualificare nel campo della musica come il paese reale, e che è un senso di realtà che tante volte nella storia del, io lo chiamo rock, scusatemi, del rock in Italia, o comunque della musica non semplice da definire in Italia, con una grande presa tra un certo tipo di ascoltatori, ha avuto, fino ad arrivare poi, per quello che riguarda Massimo, a una serie di libri, dischi, comunque a un percorso a zigzag, volutamente alla ricerca della parola e della scrittura e della musica che potesse farci ricordare chi siamo. È molto difficile definirsi, e forse in questo Zamboni ci può aiutare, o almeno lo ha fatto per esempio con L'inerme imbattibile, un disco di qualche tempo fa che era accompagnato anche anche da immagini, da scritti, dove si parlava non solo dell'Italia, ma del suo rapporto con altri paesi, del suo viaggio personale di ricerca di altri esseri umani, di connessione con se stesso. E questa continua ricerca non tanto delle radici, quanto di noi stessi, quanto della capacità che può avere la parola di dare un segnale, di darci un senso di appartenenza, come diceva Gaber, la parola non facile, e infatti è difficile anche per me riuscire a parlare di un disco, questo ultimo disco, che è l'estinzione di un colloquio amoroso, fin dal titolo vi dice proprio non la complessità, però credo la fatica che c'è nello scrivere, nel porgere cinque canzoni dove tutto apparentemente è essenziale, ed è anche in effetti essenziale, la musica che Massimo ha affidato alle chitarre e a poco altro, le parole che sono limate, anche proprio il concetto, che è quello del colloquio amoroso che si scarnifica, che diventa senso di appartenenza, ma si ribalta anche nel contrario, che ha come nei rapporti tra persone tutto quanto, cioè ci sono i momenti alti, i momenti bassi. Ed è un libro, ed è un CD, è un'immagine, quella questa che vedete, che è più di tante parole che posso dirvi io, come pure le parole che stanno su da sole, è proprio una testimonianza di una ricerca, quella per esempio di parlare d'amore senza usare quello che sono tanti versi che noi abbiamo già sentito, che alla fine non hanno più la penetrazione necessaria per davvero entrare dentro di noi. Quindi una ricerca che parte dalle musiche, parte dall'uso della parola, che riesca a definire qualcosa. La parola che definisce, che si accompagna alla musica, in realtà non ha bisogno di altre parole perché venga spiegata. Non so se questo concetto un po' criptico possa dare il senso di un disco che non vi deve né spaventare e neppure come dire, distrarre. Non è un disco, nonostante siano solo 5 canzoni, che passa in fretta. Questo è un disco che, anche per la stessa forma che ha, un libro, un CD, qualcosa da sfogliare, invece ha bisogno di molto tempo per essere davvero attraversato, perché le parole di un colloquio amoroso che si estingue o che forse rinasce, ricordarsi chi siamo, sono parole che hanno bisogno di tempo. In un momento in cui tutto quanto, soprattutto nella musica pop, che musica pop è un'ottima parola, sembra però passare molto in fretta, non avere il tempo necessario per essere pensato, per essere rielaborato, questo CD di cui parleremo con Massimo Zamboni ha invece una forza di penetrazione notevole. E mi dispiace dover usare delle perifrasi, ma ho qui l'autore, o meglio chi ha estinto il suo colloquio amoroso, almeno per il momento, per farne ripartire un altro, e quindi gli domando subito proprio innanzitutto il lavoro sulle parole e sulla musica, che sono complementari, no? Nel senso che non possono esistere le une senza l'altra, in qualche modo anche il significato finale è inestricabile, non puoi scindere le due parti. Beh, buonasera innanzitutto, grazie a voi, grazie a John che è sempre presente in queste presentazioni romane, lui poi è come le feste, lui è bravissimo a raccontare, oltre alle cose degli altri, anche le mie cose. Ma credo che il senso vero, immediato, insomma, è questa copertina che poi John vi ha mostrato, dove c'è è la prima volta che io in un certo senso appaio sulla copertina di un mio CD. Di solito i cantanti lo fanno, no? C'è sempre una faccia in posa, c'è qualcosa. E sostanzialmente quello che mostrano è la loro pelle. E io pensavo di andare un po' più in profondità, a dire la verità. Allora ho pensato di togliere la pelle, togliere le prime fasce, togliere i vasi sanguigni, togliere tutto e andare al centro del problema sostanzialmente, che è questo vuoto immane che noi ci portiamo dentro. Sono queste costole che è uno spazio siderale, sconfinato, bellissimo da vedere. E a me è capitato per caso, sotto forma di una radiografia banale, di quelle che si fanno ogni tanto per controllo, e quando me l'hanno consegnata su CD ho pensato: questi mi hanno risolto la copertina del CD, a parte mostrarmi che sono anche sano, fortunatamente. Ma mi piaceva tantissimo questa idea di questa gabbia toracica che ci porta in giro, che noi portiamo in giro, che ci contiene e che è una galera, è la nostra prigione personale, quotidiana, no? Anche le costole hanno la forma delle sbarre della prigione. E in un certo senso questo CD è un viaggio in una cella, un viaggio che ognuno di noi può compiere, perché se viviamo in spazi così angusti, in cui ognuno di noi va in giro con la propria prigione, allora io credo che sia importantissimo conoscere quali sono le dimensioni e i confini di questa cella che ci portiamo appresso. Allora ho cercato di scavare in questi confini e andare a vedere che cosa conteneva qualcosa che io contengo. È chiaro che sei in mezzo a questa cella bianca, quasi monacale, di spazi infiniti, non ci fosse questo sole rosso che batte e che dà il senso, che dà l'attrazione, no? È quello che lega gli uomini agli altri uomini, allora sarebbe un percorso molto misero, sarebbe un cadavere, qualcosa che è estinto, e non è questo l'intento del CD. Questo è un CD di vita che vive, non è un CD che può spaventare, non c'è nessuna attrazione per il macabro non c'è niente del genere, è esattamente l'opposto. È, diciamo, la meraviglia per il corpo umano, che non può essere solo meraviglia per la pelle che noi ci portiamo appresso e che ci presenta, deve essere meraviglia per tutta la complessità del corpo umano. All'interno di questo le parole e le canzoni e le musiche si sposano. Io ho cercato di scavare molto anche nella musica e anche nelle parole, tant'è vero che quello che non è entrato immediatamente nella canzone, perché la canzone è un mondo rigido, piccolo, stretto e molto dispotico, che non accetta altre parole di quelle che devono proprio stare lì, obbligate da una metrica o da una rima o da una forma musicale. Allora tutte le altre parole che non sono entrate nella canzone ho pensato di includere in questo libretto che accompagna il CD, perché avevano un ruolo importantissimo, sono i pensieri e le altre parole organizzate in forma di poesia che hanno sostenuto queste canzoni. Senza queste non ci sarebbero state le altre, e viceversa, naturalmente. E quindi abbiamo pensato di presentarle insieme. Estinzione, inermità, sconfitta sono alcuni sostantivi del tuo percorso artistico come solista, però c'è anche il colloquio, c'è l'estinzione nell'evoluzione. Un continuo, hai anche detto che noi abbiamo questo vuoto dentro, che poi è proprio come scelta poetica, una scelta che è stata percorsa da altri nel corso della nostra storia, per esempio della poesia, no? Quella di andare in sottrazione per cercare di colpire, in realtà di coprire le distanze che sono dentro di noi. Ecco, come possono estinzione ed evoluzione essere legate? L'estinzione a me comunque fa pensare a qualcosa che non ha un rilancio. Si estingue. Beh, adesso sentendo che i temi che io tocco sono sempre sconfitte, inermità, estinzione, no, voi penserete che abbia una vita sfigatissima, che invece è vero, però diciamo che come quella di tutti, no? Nel senso che sono termini con cui ognuno di noi nel corso della sua vita si deve confrontare, non c'è niente da fare. Ed è un bel confrontarsi, credo, perché sono le cose che ci legano poi di più in profondità. Se io fossi qua a millantare vittorie, come ad ascoltare vittorie degli altri o sfacciataggini, poi mi annoierei. Sostanzialmente la vittoria è sempre un segmento isolato, è qualcosa che riguarda qualcuno in un dato momento, e però è finito il suo lato di colloquio, no? È una cosa sua, bella, è facile identificarsi in questo, ma poi è finita, e quando il vincitore se ne va a casa noi rimaniamo lì da soli. La sconfitta, l'inermità, l'estinzione sono cose che legano da sempre gli uomini e che li rendono uomini sostanzialmente, una volta che vengono interpretate come fenomeno universale, positivo. Io credo che accomunare estinzione ed evoluzione sia abbastanza immediato. Noi viviamo in un momento in cui è facile suscitare il panico, no? Si governa grazie al panico, si vive grazie al panico, ci si rinchiude grazie o per colpa del panico, però è sempre la paura dell'estinzione, la paura dell'altro, poi si accompagnano sempre. E non si capisce perché noi non dovremmo accettare questo meccanismo di estinzione che riguarda la nostra vita quotidiana, ma anche la nostra vita come specie, come genere. Tutti millantano che noi finiremo da qua a 2 anni, o circa, non mi ricordo neanche bene la data, poi l'hanno già detto. Ecco, l'hanno detto anche nel 2000, poi l'ho già sentito altre volte, c'era la crisi missilistica con Unione Sovietica e gli Stati Uniti prima, ci sono state le varie guerre, ma noi teniamo botta a tutto questo. La razza umana, come la razza degli animali, la razza delle piante, sono più forti di questi catastrofismi che pretenderebbero di governare la nostra vita, perché sono meccanismi di controllo molto per nulla casuali, no? Per cui io non riesco a temere l'estinzione, perché l'estinzione lascia spazio al nuovo che verrà. Una volta siamo stati noi questo nuovo e grazie all'estinzione di altri noi siamo qua anche oggi. E non starei a temere quello che sarà dopo, perché comunque noi con la nostra estinzione dovremo fare i conti. E quindi vale la pena di considerarla come un tassello di qualcosa di cui noi abbiamo fatto parte. E non abbiamo altre possibilità che questa nostra vita, che questo nostro costato, che questi nostri tempi, e bisognerà approfittarne, credo, al massimo livello, altrimenti davvero la nostra vita sarebbe valsa poco, credo. Dopo tanto viaggiare, un viaggio, appunto, una radiografia interiore e anche un ritorno in quello che tu definisci questo sgraziato paese, a proposito di appartenenza e a proposito di nuovo di proprio quello che dicevamo prima, il catastrofismo ad alti livelli è quello che hai descritto. Il panico di vivere un momento del genere proprio qui, proprio in questo paese, proprio ora, è ancora un altro discorso. E forse in questo disco, in questo libro, che apparentemente, solo apparentemente, non entrerebbe dentro questo discorso, in realtà c'è anche questo. Siamo in un momento in cui, per esempio, tutti millantano la fine di un certo tipo di fruizione della musica o del libro, e anche questi sono catastrofismi forse eccessivi ed inutili che potrebbero aprire, che accompagnano quello vero, un oscurantismo concreto, che è quello proprio rispetto all'ispirazione poetica e anche rispetto, dico una parola di nuovo, che così, alla lotta politica che si può fare anche quando si scrive una canzone o si firma una poesia. Beh, ci sono tanti temi sollevati. Ad esempio, a me sembra che in Italia ci sia, senza tralasciando l'aggettivo amoroso, però l'estinzione di un colloquio sia il modo per definire il nostro vivere assieme oggi, no? Ci sembra che non ci sia nessuna possibilità di colloquio, che vuol dire di coesione sociale, è stata scardinata. Io non mi ricordo, ho già fortunatamente una vita abbastanza lunga per avere dei ricordi, no? Per cui riesco a paragonare quella che era l'Italia di 35-40 anni fa, quella in cui viviamo oggi. Io non ricordo un momento in cui ho sentito, ma sentono tutti quanti, così fortemente che si è estinta la possibilità del colloquio, non tra le persone singole, dove questo è ancora praticabile, però a livello più grande c'è fortemente questa mancanza. Non si capisce neanche più bene che cosa voglia dire socialità. Si comincia, io vengo dall'Emilia, che è sempre stata una delle regioni trainanti da questo punto di vista, no? Si è sempre identificata ed è sempre stata identificata come la patria del dialogo, della tolleranza, dell'apertura. L'Emilia si sta riducendo pian piano alle province di Reggio, Modena e Bologna, poi cominciamo a sentire il fiato sul collo, cominciamo a sentire del razzismo quotidiano, non quello proclamato, perché quello è anche facile vedere, ma è il razzismo dei bambini che montano sul pulmino per andare a scuola la mattina e cercano di sedersi nei posti in modo che gli indiani non li occupino. Queste piccole cose striscianti, no? Quelli per cui un nero ci ruba un posto di lavoro che noi mai vorremmo e mai ci augureremmo, cioè quelle cose che non contano assolutamente niente nella nostra vita quotidiana, perché qualcuno ci ha fatto identificare il male con queste altre persone disgraziate come noi sostanzialmente, quando credo che invece il vero invasore del nostro paese abbia la nostra pelle, usi la nostra lingua, mangi le cose che mangiamo noi, sia uguale a noi sostanzialmente, è il nostro specchio, perché questo invasore è stato capace di toglierci la terra sotto i piedi, ci ha tolto i meccanismi della coesione sociale, ci ha tolto tutto quello che fa noi stessi di noi, scusate il bisticcio. Questa è un'estinzione di cui c'è davvero da avere paura. Poi in mezzo a questo si estingue la cultura, si estingue la musica, si estinguono i libri. C'è questo paese sgraziato di cui parlava John prima, e l'Italia è particolarmente sgraziata, perché io credo che la bruttezza sia un fattore tollerabile. Tante popolazioni al mondo sono obbligate a vivere nella bruttezza, perché geograficamente vivono in luoghi brutti, impossibili, anche solo climaticamente, no? E ci sono delle situazioni insostenibili, sarebbero insostenibili per noi. Ma credo che non ci sia niente di peggio che vivere dove la bellezza invece è offesa, perché questo è assolutamente disumano. Noi viviamo in uno dei paesi che si è sempre di più al mondo da sempre confrontato con la bellezza, è sempre stato identificato con la bellezza, e vederlo offesa, questo è un meccanismo dolorosissimo, secondo me, molto più difficile da sopportare che vivere in un paese dove la bruttezza è di casa. E il tuo... E qua, vabbè, arriviamo proprio al nodo... chiaramente che affrontiamo insieme, ma che poi mi piacerebbe che rimbalzasse fra chi è qui tra noi, proprio perché vorremmo un colloquio, appunto un dialogo, direi che lo ispirano queste canzoni. Quanto si lavora proprio invece sui vuoti in questo, la pratica che è già abbastanza intensa nel tuo passato, però prosegue anche la radiografia rispetto, dicevamo, musica e parole si completano, ma nello stesso tempo si possono usare anche le parole in tutta la loro forza, nel senso, dicevamo prima tra di noi che ci sono parole che uno usa con pudore, non si capisce perché, alcune sono, non so, a me vengono in mente ideologia, educativo, cioè la forza della parola che si perde perché abbiamo imparato a dire cose uomo di colore, diversamente abile, tutte queste frasi di cortesia che nascondono la realtà, una realtà, come dicevamo prima, fatta di intolleranze, fatta di asprezze anche in un vero rapporto amoroso. Il famoso odio e t'amo è una costante comunque, che è anche un modo di conoscenza. Non si può conoscere il dolore se non sperimentandolo, non si può vedere che noi abbiamo un cuore se non attraverso una radiografia. C'è una concretezza che noi, credo, abbiamo un po' nascosto in nome di una bellezza che non esiste, perché questa non è bellezza, questa è ipocrisia, questa è invece entrare in un non detto che poi avvantaggia chi vuole in qualche modo toglierci un po' la terra sotto i piedi. Il tentativo di usare poche parole, il famoso urlo sussurrato, è una costante anche in questo disco, che non a caso non è chiamato da te un mini CD, che è un termine, sembra una minigonna, no? Quindi che non renderebbe comunque giustizia. Ah sì, sono 5 canzoni, ma il concetto, o comunque il percorso che sta dentro a questa estinzione, è un percorso chiuso, cioè completo, ecco, questo è un disco completo. Sì, questo è importante. In realtà, quando l'abbiamo pubblicato, pensavamo, ma 5 canzoni, 25 minuti di musica, non verrà considerato come appunto un mini CD, un extended CD, non so neanche come si chiama. Quindi qualcosa in attesa di qualcos'altro, sostanzialmente, un primo capitolo di qualcosa. Io penso invece che se uno butta dentro all'acqua questo mini CD, diventa improvvisamente di 45 minuti. Diciamo che questa è la forma liofilizzata, non farlo, farlo quando è incartato. È la forma liofilizzata di un pensiero, no? che concentra 45 minuti in un tempo minore. È conchiuso in sé, avrei avuto almeno altrettante canzoni da inserire, ma poi io credo che quando si parla di amore in particolare occorre molto pudore, perché è un tema spudorato, no? Se ne parlo ovunque da sempre, io da quando ascolto le canzoni c'è sempre qualcuno che parla d'amore, lo sezionano in tutti i modi, tranne poi che... È sempre un amore così che non riesci neanche a afferrare, non so, manca sempre l'oggetto dell'amore dall'altra parte. Allora credo che è meglio parlarne un po' meno, con un po' di vergogna, però cercando di concentrare questo discorso. E avevi detto anche un'altra cosa, accidenti, non me la ricordo più. Avevo detto, sì, tu parli di spudoratezza, io dicevo anche che non avere però, avere pudore, ma non avere paura, usare le parole forti comunque. Parole forti, ma io, ad esempio... Quando con i CSI eravamo andati in Mongolia, ormai sono passati tantissimi anni, no? Una cosa che ci era balzata agli occhi era la possibilità, in un mondo così fortemente naturale come la Mongolia, così poco complesso per come l'abbiamo complicato noi, era il valore che hanno le parole, no? Dove un uomo è un uomo, una donna è una donna, poi c'è il sole, poi c'è la luna, c'è l'alba, ci sono gli animali, ci sono gli uomini, e ognuna di queste cose era molto chiara, definita da un percorso naturale, ma anche da un colloquio tra gli uomini che rendeva chiara ogni categoria. Io non so se sono un ragazzo o un uomo, nessuna di queste categorie mi contiene. Difficilmente riesco a capire se una donna è una donna, che tal lo sia. Cioè, abbiamo l'alba da noi non è mai alba, la notte è molto più luminosa del giorno delle volte. C'è una confusione nei termini che noi non sappiamo più usare e c'è una grandissima vergogna. Ad esempio, se qualcuno compie un atto morale, viene tacciato di moralismo, ma sono due cose diverse. Tu prima ti eri vergognato di usare una parola che non ricordo, che educativo, che invece bisognerebbe usare. Io credo che bisognerebbe osare, senza diventare predicatori o bacchettoni in questo, affermare che ci sono delle forze che operano per il male e quelle che operano per il bene. Questo lo fa anche Berlusconi, però lui ha torto, a differenza di non solo di me, ma di tanti altri, no? Però una visione molto chiara, in effetti, su questo. Perché ci sono dei percorsi che non so come dire, non si possono definire in pochi giorni o neanche in anni. Ci sono dei percorsi infiniti per quelli che riguardano il percorso degli uomini e ci sono delle cose che noi epidermicamente, per educazione, ma anche per il nostro sentire, sappiamo che sono giuste e ce ne sono delle altre che sappiamo che non sono giuste e non c'è nient'altro da fare. Ce la raccontiamo, giriamo attorno al problema, diamo la colpa agli altri, ma noi sappiamo perfettamente che cosa è giusto fare come uomini e che cosa non è giusto, e che poi pratichiamo il contrario, e a me succede per primo. Questa è un'altra cosa, appunto, perché siamo uomini, siamo difettati come modelli. E io credo che se c'è il proverbio che dice che errare è umano, perseverare da questo punto è coerente, non è diabolico, è coerente alla nostra natura umana. Quindi noi perseveriamo negli errori, e ripeto, io sono il primo a farlo. Però allo stesso tempo dobbiamo non aver paura di questi termini, di sapere che cosa è giusto fare, che cosa è educativo o che cosa è diseducativo o morale o amorale. Un altro termine che magari uno farebbe fatica a usare è coscienza, che ci riporta al discorso che sta facendo Massimo. Ma prima di andare ancora avanti su questo percorso di quasi leopardiano, no? Di recupero della parola, la parola che è molto difficile in una civiltà come la nostra, che è fatta di stratificazioni. Tu citavi appunto i panorami di un popolo, magari di pastori, che è rimasto attaccato a cose che sono molto chiare, mentre qui noi siamo in un posto dove, per esempio, sotto una luce artificiale non sappiamo se fuori c'è il sole oppure c'è il buio, quindi stiamo comunque in una grande concrezione culturale e quindi abbiamo la nostra difficoltà proprio a esprimerci e a ritrovare quella nettezza che forse è impossibile da trovare, ma che magari bisogna cercare. Non so se qualcuno vuole togliermi il gradito, ma anche credo per voi noioso compito di continuare a stimolare Massimo questa respirazione bocca a bocca, cioè assolutamente non è moribondo, io nemmeno. O se qualcuno di voi ha semplicemente ascoltato il CD e cosa ne pensa? E quindi riprendiamo il nostro percorso all'interno del piano piano con la nostra carrucola. Senti, ma in tutto questo anche il rapporto che hai con gli altri musicisti, come si sta evolvendo? Potresti fare, chiuso questo discorso, magari il prossimo album è un album di heavy metal? No, ovviamente sto scherzando, però voglio dire, qui c'è una rarefazione, una essenzialità che sta andando avanti, ma ci sono persone con cui hai suonato, hai collaborato e adesso ti stai già ponendo il se può essere un problema, ti stai già chiedendo cosa fai, soprattutto a livello proprio pratico. Questo disco verrà rappresentato in una serie di esibizioni, tu sarai solo, ci sarà una band? Vabbè, avremo un po' di concerti in cui suoneranno le persone che hanno suonato con me in questo CD, con una grandissima difficoltà, perché suonare in Italia oggi è veramente molto complicato. E per me lo è ancora di più, perché io non sono a metà tra gli spettacoli teatrali e i concerti, quindi alla fine non c'è né l'uno né l'altro contenitore che mi riesca a contenere. E a questo proposito pensavo proprio una cosa fresca, nuova che mi è venuta in mente stamattina e non ne ho parlato con nessuno, però io avrei già un CD in mente, non vorrei uscire entro l'anno con un CD che parla del nostro paese, perché mi sembra il tema da affrontare adesso. Però alla fine ho pensato che forse la cosa che io farei meglio a fare sarebbe di stare fermo un anno a coltivare delle piante, allevare degli animali e lasciare che i pensieri prendano una rigenerata, perché questo CD chiude un percorso, no? Che è quello di partito con Sorella Sconfitta, cioè chiusa la storia con i CSI, è cominciata questa esplorazione in tutte le sfortune degli esseri umani, non solo la mia, che questo idealmente io vorrei avere chiuso per pensare ad altro. Però mi è sembrato anche strano pensare, cioè finire una cosa e il giorno dopo essere già pronti a ripartire con un altro argomento. Mi sembra poi parte di questa fretta collettiva che invade le nostre vite. Allora forse la cosa più sensata sarebbe quella di, pensavo simbolicamente di, come si chiama, disdire l'assicurazione dell'auto, così sono sicuro di non muoverla, di rimanere a abitare dove sono, che è in un bel posto in montagna, e di stare lì un anno a vedere che cosa succede. Dopo suonerò 150 CD in 3 mesi, perché sarà così. Però l'idea di darsi questo tempo per maturare un percorso nuovo, altrimenti suonerei già un altro CD con questa ansia, no? Di dover sempre mandare fuori cose nuove che poi non maturano vita dentro di sé, e questo sarebbe sbagliato. Ma tu dici che è uno stimolo indotto, non è uno stimolo reale. Se tu ti svegli una mattina alla fine di una fatica come questa, che comunque praticamente svuota anche un po', concluso, pensi che dire vorrei fare un disco completo su questo non sia uno stimolo invece, proprio perché arriva alla fine di un percorso concreto? Te lo dico così, da punto di vista. No, ma è così, solo che mi rendo conto che, insomma, noi, esempio, le piante da frutto una volta duravano 100 anni e sfornavano una quantità impressionante di frutta. Adesso quelle piante durano 10 anni, sono pompate al massimo, fanno un po' di frutta e tutta la loro vita dura poco, dura una decina di anni, che è il nostro percorso, nel senso che noi abbiamo delle aspettative di vita molto più lunghe di un po' di tempo fa, però siamo sempre spremuti, iperfertilizzati, siamo come queste piante qua vitaminizzate, no? Però la frutta poi alla fine, già me la ricordo io, che una volta era più buona, figuriamoci quelli un po' più anziani, e credo che sia il caso di centellinare un po' di più le cose. Ad esempio questo percorso nel nostro paese, che sarei in grado di fare, perché comunque è facile guardare l'Italia oggi, credo, volerne parlare. Però allo stesso tempo potrebbe arricchirsi di altre voci che non sono soltanto la mia. Potrebbe esserci una voce femminile o due, potrebbe esserci un'altra voce maschile, potrebbe essere parte di un percorso artistico più grande di me e basta. E questo richiede un po' di tempo e forse sarebbe il caso di concederselo. Come no? In questo tempo che tu ti concederesti, che ti concederai e che ti sei anche già concesso, ci sono, oltre che gli alberi e le piante e il tuo ritiro, che non è un ritiro, è una vita semplicemente in un bel posto, beato te, chi io vivo invece... Sì. No, io lo intenderei come apertura. Sì, apertura. Perché il ritiro infatti era improprio, assolutamente. Però in tutto questo c'è sempre lo spazio, o almeno la curiosità, per libri, musiche scritte da altri, cioè ti guardi intorno senza seguire magari i ritmi della televisione, però c'è un, non so, la voglia di sfiorare. Io adesso avevo promesso che non l'avrei fatto, però lo dico lo stesso. Mi ricordo che l'ultima intervista veramente apocalittica che feci a Giovanni Lindo Ferretti fu veramente devastante per me su un'unica domanda, che ma tu cosa stai leggendo in questo periodo? Non dovevo chiedere una cosa del genere, perché mi si rispose, magari anche con sincerità, che gli unici libri che all'epoca, e vi parlo di ormai 5-6 anni fa, Ferretti stava leggendo erano libri sacri, a parte un libro che è Le particelle elementari, per dire, quindi la capacità in ogni caso di captare qualcosa che potrebbe essere sempre, no, al passo con questi dissennati tempi. L'ho detto solo perché invece la domanda che ti faccio è se da questo punto di vista tu leggi solo libri profani c'è qualcosa che ti attira, che ti spinge a... No, a me il problema è che mi attira tutto, solo che, come succede a tutti, non ti dai neanche mai il tempo della lettura, no? Perché poi continui a rimandare. Io ho letto tantissimo finché studiavo, ad esempio, fino all'università ho potuto leggere tanto, poi è cominciato questo moto continuo CCCP, CSI, robe soliste, libri, film, eccetera, e non leggi più. Ma come non leggi più? Voglio dire, è vero che c'è un periodo nella vita forse per leggere, poi dopo devi cercare di far tesoro di quello che hai letto, perché quel tempo non l'avrai più e lo devi far crescere dentro di te. Però poi non puoi entrare in un posto come questo e non desiderare di leggere tutti i libri che vedi, darti il tempo per farlo, no? Perché quei libri sono lì apposta, qualcuno ha sofferto le pene dell'inferno perché tu possa leggerli. Allora tutti non ce la farai mai, dovrai scegliere quelli più adatti alla tua natura, però il lusso di farlo bisognerebbe poterselo strappare via dalle cose, credo, e questo è una cosa da fare. Sono totalmente d'accordo, e anzi la prima cosa che dovremmo fare è accendere sempre più la curiosità. Io non so se ci sono domande o curiosità, ma soprattutto la domanda ve la rifaccio: avete ascoltato, qualcuno di voi ha ascoltato questo disco? È uscito da poco, quindi forse no, perché la mia curiosità rispetto a me stesso, che ho dovuto e voluto e anche cercato di produrmi scrivendo qualcosa su questo libro e che quindi su questo disco e che quindi l'ho frequentato già da qualche settimana. È proprio, credo che sia un disco che ha la capacità di innescare reazioni davvero diverse rispetto a chi lo percorre, e che è una cosa che tante volte uno non pensa, ma molta della musica che noi attraversiamo è un po' una strada a un'unica percorrenza, la strada segnata di certe canzoni, dove all'immaginazione è lasciato poco, e la forza che riesco a focalizzare solo adesso, quindi le mie recensioni hanno fallito in questo, principale di questo disco, secondo me è proprio questa, di non rappresentare un'unica corsia di lettura, anche emotiva, ecco, non sto parlando di interpretazione o cose del genere, una qualità che molta della musica di oggi non ha, per tanti motivi, e che già le canzoni di Battisti avevano, quindi non è che stia parlando della metafisica di Aristotele, sto parlando semplicemente del fatto che appunto le canzoni devono essere anche libere rispetto a chi le scrive, no? Devono poi poter in qualche modo andare oltre. Può sfuggire di mano una canzone, o tu cerchi di controllarle fino all'ultimo battito? La canzone deve sfuggire di mano, deve sfuggire di mano, è un po' come un figlio, no? Nel senso che tu la segui un attimo per quello che puoi, cercando di darle un percorso che tu ritieni sensato, ma poi deve diventare matura da sola una canzone. Tra l'altro, molte canzoni, forse non necessariamente quelle di questo album, però nascono da colonne sonore, nel senso che subito era solo musica e poi un po' alla volta si sono organizzate in canzone, sono arrivate le parole. Questo per dire come una musica può avere tantissime forme. Questo è bello, perché la musica è un liquido, non è un solido, deve andare a riempire i buchi che trova nel suo percorso, non può star ferma lì. Ho sempre pensato, evito come la peste social network come Facebook. Vedo che tu sei su Facebook. Sì, ma non so neanche accenderlo. Fantastico. È una cosa che però un problema mio è quello, per esempio, un limite. Invece vedo che tu sei su Facebook, che su YouTube c'è un tuo archivio, credo. Ecco, tu non sai accendere magari il computer, però questa forma anche qui liquida di comunicazione ti interessa. Ma in realtà mica tanto, però mi hanno fatto credere che è una cosa da fare. Io, okay, essendo molto disciplinato, l'ho fatto, ma devo dire la verità, non ci credo. Fantastico. Tanto, e non so neanche farla funzionare bene. Però insomma può servire in alcuni casi, ma lo intenderei solo come fenomeno commerciale, no? Far sapere un commerciale con tutte le virgolette, far sapere a un certo numero di persone interessate che magari è uscito un CD e non avrebbero altro modo per poterlo sapere. Ma è giusto questo, non ho nessuno, insomma, la considero un po' un elettrodomestico internet, come il frigo, la lavatrice, quelle robe lì, può essere utile. No, non c'era niente di visivo da accompagnare a questo, cioè avevi pensato anche a qualcosa che fosse... Ma cioè, mandare immagine. In giro la radiografia non no, mi no, la radiografia così, lo so, quella anche così di bella. Però ecco, vuol dire, e c'era sostanzialmente sì, musica e parole, no? Sì, questo, no, perché poi produrre immagini è molto complicato e molto costoso. Io volevo che questo fosse anche un CD poco costoso per chi lo compra, no? Infatti l'idea di pubblicare anche questo, sostanzialmente, che è lo stesso CD senza il libretto, a un prezzo molto ribassato, era perché, insomma, ci lamentiamo sempre di quanto costa la musica, pensavo che mandarlo fuori a un prezzo più basso fosse la cosa da fare. In realtà mi rendo conto che tutti comprano quello che costa di più, quindi io non ho capito granché dei meccanismi commerciali. Però è bello dare questa possibilità, insomma, se uno vuole ascoltarsi la musica pensando che le parole possano anche rimanere dove sono, è bello poterlo fare, credo. Io sono semplicemente, sono esaurito felicemente, ecco, nel senso che credo che un disco del genere poi debba davvero essere ascoltato e che tutto quello che io, non quello che ha detto Massimo, al riguardo sia un pleonasma, cioè una parolaccia, scusate, sia un qualcosa di più che può aiutare appunto a colloquiare su un percorso di poesia e anche di resistenza. Quando parlo di resistenza, una pacata resistenza, chi conosce Massimo anche meglio di me lo sa, una pacata ma una ostinata resistenza rispetto proprio alla velocità forsennata in cui tutti noi siamo immersi, il paragone con le piante da frutto è molto azzeccato. Peccato che noi abbiamo delle aspettative di vita, qualcuno dice ultracentenarie, quindi se continueremo a essere così distrutti non so cosa diventeremo tra, per esempio, solo 10 anni. È un'operazione collettiva che a me fa paura per fermare e soprattutto per permettere davvero alle parole di risuonare, non solo alle parole, anche a quello che le parole finiscono per significare insieme alle musiche. L'estinzione di un colloquio amoroso è davvero uno strumento importante, mentre non è importante questa cosa che vibra qui. Io ringrazio molto Massimo e ringrazio voi per essere stati a sentirci e mi auguro, insomma, di vederlo dal vivo anche a Roma al più presto. Grazie. Grazie a voi. Ha appena presentato un disco di 5 pezzi, Estinzione di un colloquio amoroso, accompagnato da un libretto con tutti i testi e tutto quello che non è praticamente entrato dentro questi brani. John Vignola ha cercato di spiegare un minimo il concetto di questo progetto. E ora lo avremo a breve qui nella nostra postazione per fare un po' di domande da parte di Transizione di Fase. Abbiamo John Vignola, giornalista del Mucchio. Per quanto riguarda la musica, il campo dell'ambito musicale, in mezzo di questo genere, ha dei risvolti, delle potenzialità alte. Tu pensi che sia un buon media di comunicazione per poter portare avanti dei progetti o comunque delle potenzialità particolari? Credo di sì. Tieni conto che io ho un passato e un presente radiofonico, perché lavoro per Radio 2 e quest'anno ho addirittura dovuto condurre, comunque per contratto ho condotto un programma in diretta, quindi non era una web radio, però era un programma performance in diretta e su un pullman vetrina a Sanremo, e seguiremo anche il 1° maggio. Allora, lavorando per una radio, diciamo così, istituzionale, che ha una sua fruizione principale, che è quella dell'ascolto canonico, la mia esperienza è quella, per esempio, di un interesse sempre più sviluppato nei confronti, per esempio, dei podcast, che sono comunque un modo per ritornare indietro rispetto a un programma che c'è stato, quindi valorizzarlo di più, e anche un interesse a tutto quello che succede su internet, posto che quello che credo identifichi una radio, al di là del mezzo che si usa, sono i contenuti. Quindi andare con un progetto di comunicazione forte che sia sempre legato a una sostanza, perché tante volte, secondo me, nell'ambito delle web radio o comunque degli esperimenti ci tematici, diventano dei grandi calderoni musicali. Sì, ma poi ci deve essere anche qualcuno che si occupa di un concetto, cioè si fa una radio dove i contenuti devono essere forti. Possono essere pop, possono essere politici, possono essere... Però ecco, l'unico esempio che mi viene in mente, che è ultra obsoleto, però è Radio Radicale, non perché al di là della connotazione politica, però dare dei contenuti sempre a quello che si sceglie. Credo che seguire in una libreria come la Feltrinelli una presentazione di un disco di Zamboni chiaramente risponda a questo tipo di esperimento. Sì, ma io parlavo in particolare del format, cioè il fatto di essere presenti su due campo in diretta. Sì, d'accordo, anche il podcast te la riascolti a casa, sì, no, era più attenzione, certo, con calma, chi non è potuto essere presente qua. Però il fatto di presentare questa cosa non come un'eccezione mediatica, ma quasi come se fosse un dovere mediatico. Se è una regola, sì, sì. Se diventa l'importante e lavorare molto sul territorio e far sì che questi esperimenti non diventino sporadici, ma siano consuetudine. Cioè, il punto è tutto lì. Bisognerebbe, con il beneplacito, sì, di... se hai già avuto un'esperienza di un contesto di questo genere. Ho avuto diverse. Esistono realtà, sì, di questo genere che sono capillari, sì, nel sociale, sì, nel territorio. Okay. Sono stato intervistato. Sono sparse in qualche... te, nell'Italia? Cioè, esistono realtà particolari dal punto di vista geografico? Posso dirti che, per quello che so io, nella zona per certi versi infelice politicamente del Lombardo-Veneto, ci sono state molte radio che hanno tentato questo tipo di esperimenti collegandosi a festival, a manifestazioni librarie. Credo che a Mantova quest'anno succederà una cosa del genere. Probabilmente ci vorrebbe un coordinamento tra queste realtà, però poi succede anche, come sapete bene anche voi, che quando si fa un'operazione di divulgazione culturale, in questo caso radiofonica indipendente, si creino dei sensi di competizione che dovrebbero essere messi da parte. Indotte, non lo so, perché poi uno, non lo so, perché ci sono una competizione rispetto al fatto che se la radio diventa un network che deve sostenersi e non più una onlus, cioè, cambia completamente l'orizzonte. Allora, tante volte la famosa guerra fra i poveri, o comunque il formato interessante, è soffocato dal fatto che le realtà, lo abbiamo visto anche nelle etichette indipendenti, antagoniste, invece di coordinarsi, si fanno la guerra. Beh, sì, dipende dal tipo di realtà, dalle estrazioni. Esistono delle... esatto. Sicuramente, però io ti posso parlare solo... No, ti spiego il senso anche della domanda che faceva Gigi. Allora, il nostro è un progetto che nasce già con questo spirito. Benissimo. Nel senso... Noi la chiamiamo radio, ma è un contenitore di tanti che stanno crescendo, autonome trasmissioni che nascono indipendentemente dal coordinamento generale, sono degli individui autonomi che si gestiscono autonomamente lo spazio, hanno il proprio blog di riferimento e poi si propongono attraverso un'unità di intenti, che sono quelli che ti ho fatto leggere prima, di comunicare insieme. A un progetto del genere si può solo augurare di evolversi ancora. Non è che ci siano non so come dire, è una cosa che dal punto di vista comunicativo è interessante e quello che conta poi sono i contenuti, come sempre, perché se una serie di persone che hanno un blog, ideologicamente, dal mio punto di vista, riprovevole, facessero un lavoro come il vostro, vi direi che i contenuti non mi vanno. Cioè, è sempre quello, se si riesce a portare in giro delle cose che hanno un profilo di comunicazione alta, il mezzo viene dopo. Continuo a ripetere quello che ho detto prima, va benissimo così. Io ho il limite enorme di essere un po' restio rispetto all'uso selvaggio che si fa della tecnologia, soprattutto su internet, di comunicazione. Non ho Facebook, ma questo è un problema. Non ho un blog, Siamo d'accordo. No, però voglio dire, ti parlo di me personalmente, quindi avendo poi un lavoro che è molto connesso con la comunicazione, ho poi una mia personale forma di chiusura, che significa che io poi faccio anche un'altra vita rispetto al fatto di essere sempre connessi, sempre in dialogo. Cioè, le forme di comunicazione poi devono essere anche preziose, non perché io sia prezioso, ma perché ci sono dei momenti in cui tu decidi di comunicare, ci sono dei momenti in cui tu invece perdi del tempo, proprio perdi e dissipi anche le tue energie. Per cui, ecco, il mio poi rapporto nei confronti della tecnologia attiva, quella del social network, è molto limitato per mia scelta. Quindi non ho un blog, quindi eccetera, eccetera. Un esperimento del genere, una pratica del genere, è chiaro che è interessante, è inevitabile. Bene, quindi esistono degli spazi che possono sostenerci in quanto spazio. A livello di comunicazione sicuramente, cioè nel senso che se si tratta di parlare di un progetto del genere, ma io credo che i giornalisti che fanno parte di un certo tipo di, come me, non possono che appoggiarlo, ecco. Sì, gli ambiti sono anche extra lavorativi, qui nessuno di noi sta lavorando nel propriamente del detto del termine, non è un lavoro, è semplicemente infatti il problema più di una passione. Ecco il problema, poi che, però ecco, ti spiego poi il problema e qui chiudo quando il mio, entrano in giro i soldi per chiudere il mio intervento. Il mio problema è che poi dovendo facendo questa cosa come lavoro da tanto tempo, uno fa il suo servizio in una radio, in un giornale, dando la propria testimonianza, che è in cui cerca di non entrare in contraddizione con se stesso, però sta lavorando. Allora lavorare significa che tu hai degli orari, hai un capo, cioè significa tutto quello che voi potete immaginare. Quindi io sono da questo punto di vista un lavoratore dell'ambito a cui appartengo, che ha le sue idee, che divulga quelle idee e che chiaramente anche oggi è venuto a presentare il disco di Massimo fuori dai suoi ritmi e doveri di ufficio. Grazie. Grazie a te. Grazie a voi. Ecco, abbiamo qui Massimo Zamboni per una breve intervista post conferenza. Allora, innanzitutto buonasera, questa è Transizione di Fase, una web radio che è nata da poco e ti dà il benvenuto. Innanzitutto una cosa che mi è venuta da una tua affermazione, ossia il paragone degli alberi centenari e quelli decennali di oggi, il fatto che siamo costretti a correre in questa società e soprattutto in un paese come l'Italia, che hai considerato molto sgraziato. Ora, anche il fatto di voler non ritirarsi, ma magari aprirsi con una sospensione magari del ritmo quotidiano, che magari potrà portare una vena prolifica molto più importante di quanto è oggi. Volevo dirti, secondo te in un paese come questo, l'Italia, c'è una speranza che magari ritorniamo un minimo a camminare, magari non a correre, a riflettere più sulle cose e magari non a sfornare, a essere spremuti come hai detto all'inizio? Beh, diciamo che questa di correre, questa fretta con cui governiamo la nostra vita e poi il nostro modo di vivere la nostra vita, nel senso che vivere nel nostro tempo significa questo, è difficile che significhi altro e da questo punto di vista credo che vada accettato, no? Noi siamo, come è sempre stato chiunque prima di noi, uomini del nostro tempo, non di un altro tempo. E in questo io sono molto orgoglioso, anche perché, a dire la verità, è stato anche il sacrificio di tantissime persone che ha portato noi a vivere così, anche siamo qua in una bellissima libreria, tu hai idea di quanti milioni di morti ci hanno portato qua, non è stato il lavoro dei vivi, è stato il sacrificio di tanti. E quindi questo comunque noi dobbiamo rispettarlo. Allo stesso tempo la sensazione di sentirci come delle mucche da latte, no? Che non vengono mai slegate dalla catena, hanno un solo movimento, cioè da in piedi a sedute, e basta, e loro devono porgere le mammelle a qualcuno che dal di dietro le munge e basta. Quando nasce un vitello le viene tolto il giorno stesso e non lo rivedranno mai più e basta, questa è la loro vita. Noi ci capita di sentire questo, allo stesso tempo abbiamo tantissime possibilità di, come dire, di percorsi individuali e tanti di noi riescano a compierli. Forse anche questa radio è un esempio, no? L'idea che comunque abbiamo delle possibilità che ci sono state concesse enormi rispetto a quelle che c'erano fino a poco tempo fa e si tratta di alzarsi, rivendicarle e prenderle. Dal lato comunicativo invece, detto che non ami molto la tecnologia, Facebook e affini, la consideri come un elettrodomestico, può essere utile. Questa web radio è anche un'espressione della tecnologia, se pensiamo al fatto che un tempo andava tutto via etere ed erano quelle le frequenze disponibili, oggi abbiamo fatto un grosso salto in avanti. C'è però il rischio ovviamente di perdersi nell'oceano di internet e della, forse di un eccesso di comunicazione. Secondo te come si potrebbe pensare un progetto che possa realmente essere incisivo in questo oceano? Ma guardi, io ho visto nascere le radio libere, no? Quando ho cominciato a guardare la televisione, ascoltare la radio, c'erano Rai 1 e Rai 2 e basta, e un canale radio. Poi sono arrivate le radio libere e hanno cominciato a trasmettere tutta quella musica che non esisteva prima. Adesso le radio libere sono responsabili dell'estinzione della musica, nel senso che i meccanismi di potere che governano le radio libere, le principali radio che si dicono libere, sono meccanismi esclusivi, ascolti solo musica decisa da loro, la stragrande maggioranza di tutte le altre radio libere manda in onda solo quello che le tre o quattro radio libere principali hanno deciso che deve circolare, quindi mi chiedo cosa vuol dire libertà. Allo stesso tempo voi siete una web radio. Tra un po' di tempo le web radio saranno governate da delle forze molto potenti e né voi né me potremo farci qualcosa, dovremo cercare un'altra metamorfosi ancora. Io credo che l'unica sfida sia a livello di contenuto, non di mezzo, cioè l'importante è vero che il mezzo e il contenuto, insomma, queste belle formule le abbiamo già viste, no, le sanno tutte. Anche no? John Vignola poco fa ha detto la stessa cosa, ha detto io mi concentrerei prima sui contenuti. È così, perché comunque i contenuti sono multiformi ed escono dal mezzo, cioè la cosa che conta è il rapporto tra le persone, il fatto di sentirci uomini assieme, poiché si è espresso attraverso una web radio, un giornale, la televisione, sono mezzi che sono morti. Se io vedo la televisione vedo un cadavere che continua a parlare perché non si è accorto che è morto. Vedi i giornali che sono stati una conquista enorme per la nostra società, no? Perché il giornale è stato strappato al potere, non c'è mai stato regalato dal potere. Adesso sono tutti sostanzialmente in mano a quello stesso potere, quelli che non lo sono agiscono con le stesse regole. Quindi io quando prendo in mano un giornale ho in mano un cadavere. Se prendo la radio io non l'accendo perché mi fa lo stesso effetto. Quindi ci sono delle metamorfosi continue e che noi ci sforziamo sempre di afferrare al momento buono, ma l'importante non è questo mezzo, l'importante è la persona, secondo me. E le radio antagoniste come queste, o in realtà così, dove espressamente vengono dichiarati certi contenuti come l'antifascismo, l'antisessismo, l'antirazzismo in maniera eloquente e trasparente, non pensi che non è più un problema di contenuto ma un problema di doversi ritagliare i propri spazi mediatici? Cioè se il problema è che i media quando diventano interessanti ai potenti, i potenti se li comprano e dettano delle regole che ti impediscono quindi di esercitare il tuo diritto. Allo stesso tempo è anche vero il contrario, perché se hai il mezzo, in questo caso, devi trovare il modo migliore di espressione. In questo caso la nostra presenza qui era per far capire che ci sono degli spazi da strappare. Io credo che ci sono due discorsi da fare, no? Uno che, ad esempio, difendersi antagonista è una parola che a me subito mi fa un po'... Mi stringe molto, no? Perché l'ho già sentita tante volte da persone che dopo due anni non erano più antagonisti di niente. Per cui ci vuole molta prudenza in questo. Perché quando uno o per niente prudenza. O molta prudenza o per niente prudenza. Sono d'accordo anche in questo. Però sai, dopo quando uno ha una radio antagonista, non sto parlando di voi, sto parlando in generale, dopo quando parla di musica dice... un certo tipo di musica, poi quando parla di vestiti dice un certo tipo di vestiti o un certo tipo di libri, senza che nessuno mai determini cosa voglia dire un certo tipo, si lascia all'immaginazione di un ascoltatore supposto, per cui occorre stare attenti perché ne ho visti troppi di antagonisti che sono diventati dall'altra parte. Una volta questo antagonismo tante volte sembra un reclamo a una piccola fetta di torta, sapendo che non si può mangiare di più sostanzialmente. Per questo preferirei parlare di nomi, cognomi, di persone, di gruppi, di espressioni individuali, perché mi sembra la forma di opposizione più grossa che uno possa porre è quella del se stesso sostanzialmente, al di là di formule, no? Che poi sono sacrosante, giuste, le capisco per motivi di età o anche di regione, perché no? Non è mica un subordine questo, no? O io stesso l'ho praticato quando ero ora, però poi a un certo punto devi anche fare dei conti diversi, mi sembra. Una domanda che volevo fare anche prima a Vignola, però purtroppo poi un po' la timidezza, un po' l'incapacità mi è sfuggita. Però appunto ne parlavi poco fa tu e secondo me hai toccato un punto fondamentale, quello di fare nomi. E anche un po' nella tua, durante tutta quanta la conferenza stampa, comunque facevi molto riferimento alla tua esperienza. Proprio una domanda che ti volevo fare per iniziare noi a fare nomi, nel senso a determinare quello che secondo noi è un cambiamento che vogliamo, no? Al di là dei contenuti che proviamo a esprimere all'interno della radio, è come è cambiata la scena musicale negli ultimi 30 anni, secondo te quali sono stati anche un po' i meccanismi di potere? Questo è un domandone, forse stiamo qui fino a domani mattina, però come quali sono stati i meccanismi di potere che hanno fatto cambiare la musica per quello che ritieni tu, quella che è la tua esperienza? Diciamo che ci sono dei meccanismi di potere consci, che sono quelli che hanno consciamente cercato di estinguere la cultura in Italia, no? O perlomeno quella che viene considerata un'egemonia culturale legata sicuramente a una generica sinistra o comunque a un mondo giovanile che sulla musica campava, costruiva la propria vita spinta dalla musica. L'esclusione dalla televisione, dalla radio, poi dai giornali, poi dalle riviste, poi da tutto quanto, determina un'estinzione voluta, non è mai casuale. Allo stesso tempo tutti quelli che invece si sforzano di tenere in vita la musica, che sono le riviste musicali, che sono le fanzine, che sono tutte queste genere di cose, no? Poi determinano un'ulteriore estinzione, perché hanno un'incapacità di vedere al di là del proprio conformismo, che è sconfortante nel vero senso della parola. A un certo punto a me dà quasi più fastidio una rivista musicale che parla di musica facendo un elenco dei CD che sono usciti, mettiamo, come se fosse l'elenco del telefono, senza capire che invece bisogna parlare di due CD, non i miei, di due CD o tre in un mese, e dedicare pagine e pagine a quei CD, perché sono quelli che ci faranno vivere. Non conta l'informazione di tutto, perché quello è inutile, non serve a nessuno. Tu devi creare vita, non devi creare informazione. L'informazione ci uccide, la vita ci fa vivere. Beh, questa informazione da postal market. Il rischio è quello, tempo fa, parentesi, ho visto Crollo Nevrotico, uno speciale di cui c'eri anche tu, parlava dell'estinzione della scena dark wave anni 80, in caso particolare le prime influenze punk, i panchettoni poi venduti al potere, eccetera, eccetera. In questo senso anche estinzione? Cioè semplicemente un pezzo di un percorso, oppure deve essere magari preservata in qualche modo? No, perché cioè, poi rischia di diventare un... questa estinzione o devono accentuare? Sì, diventa un santuario, no? Vuol dire, noi dovremmo guardare un panchettone che gira con la cresta come guardiamo al dodo, uccello mitico, questo genere di cose. L'aspetto, no? Esteriore di un termine. Che no, può ma anche l'espressione musicale o cose, insomma... Voglio dire, cristallizzato in un periodo è giusto che stia lì e deve essere in evoluzione continua, assolutamente. Quindi non credi che in quel periodo storico, di quello speciale che ti dicevo prima, degli anni Ottanta, che doveva finire così, fondamentalmente? Secondo me il storico è stato concluso. Sì, secondo me è assolutamente concluso. Io credo il contrario. Sì? No, io invece sono contento che sia concluso, come sono contento che si siano chiusi i CCP, i CSI, i Pink Floyd, i Beatles... Elvis Presley, anche tutti quelli che più abbiamo amato, no? Perché lasciano spazio ad altro e poi non c'è nessuno che sia durato. Mi riferivo in particolare a quei gruppi che non hanno mai avuto più di un brandello di recensione su una rivista. Certo. Io mi riferisco espressamente sono tanti, grandi, però allo stesso tempo rivendicare la centralità di ognuno di noi è molto ingombrante, c'è anche molta presunzione in questo, no? Alcuni hanno dei percorsi molto fortunati e io sono tra quelli, ad esempio, perché ci sono gruppi che sicuramente sapevano suonare meglio e tutto quanto, ma questo non conta, no? È inevitabile questa cosa. io credo che vada accettata. Pensa quanti artisti americani noi non abbiamo mai ascoltato. È così. Salve. Buongiorno. Alla fine da me. Allora, io visto che è tardi e visto che ti ho intervistato parecchie volte in tutte queste estinzioni che abbiamo visto in funzioni diverse attraversare, ti faccio un'unica domanda, visto che mi hai stressato, sono mesi che mi stressi. Uomo animale o animale uomo? Beh, un'unica domanda che richiede un paio di giorni per una risposta. Ogni tanto io sento una cosa, ogni tanto sento l'altra. Diciamo che l'uomo ha una forte invidia per gli animali quando li guarda, perché sembra che gli animali siano in contatto diretto con qualcosa che l'uomo ha perduto, no? L'animale è un tramite immediato verso il celeste. Questo, che uno creda o non creda, per noi è molto facile pensare questa cosa. Allo stesso tempo gli uomini hanno una grandezza che agli animali è assolutamente preclusa. Se un animale vede uno della sua specie che sta male, lo abbandona, lo lascia lì dov'è, lo lascia morire e scappa lontano da lì. Questo non succede agli uomini, o può anche succedere, ma non succede. Noi siamo capaci di commuoverci per la fine di una persona che non conosciamo neanche e di essere profondamente coinvolti dalla sua sparizione o anche dalla sua disgrazia. E questo, secondo me, è un'altezza a cui gli animali non potranno arrivare. Sì, però negli ultimi due dischi, perché io il primo lo sai, non l'ho ascoltato, tu questo riferimento all'animale l'hai sempre messo, al paragone con l'animale. Un po' come il lupo della steppa di Esse, no? Nel momento in cui c'è quel brano in cui fa il paragone tra l'essere lupo e essere uomo, volevo capire in quale di queste dimensioni l'hai considerato questo riferimento all'animale. Beh, io credo che vadano cavalcate tutte e due, perché essere soltanto uomini è altissimo come compito, però non può essere tutto lì, nel senso che questo è anche l'inizio del libro, il mio primo dopoguerra, no? In cui la prima frase era: piante e animali sono condannate alla vita e l'uomo è condannato alla storia. Ognuna delle due categorie porta una condanna in sé. Io credo che l'uomo, più degli animali, ha la possibilità di tenere i piedi, non dico in due staffe, perché comunque l'uomo è condannato a una vita politica, ma può allo stesso tempo, diciamo, assaporare, immaginare, rimpiangere o desiderare per il futuro una vita legata alla vita, non solo all'espressione politica di quella vita. Gli animali fanno fatica perché gli animali, come sistema, sono trascinati dal sistema degli uomini. Loro sono trascinati dalla nostra politica senza poter fare niente. E noi, solo in piccola parte, siamo trascinati dalla vita degli animali senza poter fare niente. E quindi, come, diciamo, un meccanismo trascinante, abbiamo una possibilità di scelta che di cui varrebbe la pena approfittare, secondo me. Grazie a voi, bentrovati. Avete ascoltato l'intervista post conferenza di presentazione del libro e dell'ultimo disco Estinzione di un colloquio amoroso di Massimo Zamboni, chitarrista storico dei CCCP. Vi lasciamo al palinsesto di transizione di fase, e a presto.